l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Eccoci qui. Io voglio salutare per la nostra intervista di oggi la signora Egidia Beretta. Buongiorno signora. Buongiorno. Lei è la madre di Vittorio Arrigoni, sì, ucciso nella striscia di Gaza il 15 aprile. È anche sindaco di Bulciago, un piccolo paese in provincia di Lecco. Senta signora, ieri abbiamo appreso dai giornali che Hamas in un blitz ha pare ucciso i rapitori, i sequestratori e gli assassini di suo figlio. Della vicenda insomma sappiamo qualcosa dai giornali. Le vorrei chiedere le sue sensazioni ad apprendere questa notizia. Ma io l'ho saputo direttamente, mi hanno telefonato dalla striscia di Gaza un amico di Vittorio e mi ha detto, ma io pensavo si riferisse ancora alla cattura dei tre, quindi non ero ancora al corrente di questo. E poi successivamente mi ha chiamato anche un ministro del governo di Hamas per dirmi questo e non ho commentato, ho chiesto soltanto se fosse rimasto qualcuno in vita, perché quello che interessa a noi come famiglia, insomma, a me interessa sapere perché, ecco, perché è successo questo, perché hanno mirato a Vittorio, perché hanno preso Vittorio. Perché lei una risposta ovviamente non se l'è data, No, perché penso tante cose, penso che Vittorio era in procinto di partire, lo hanno voluto fermare prima. Vittorio stava raccogliendo moltissimo materiale per scrivere un libro, un documento per parlare delle sue esperienze con i pescatori, con i contadini, cioè tante cose mi passano per la testa, però non me la spiego. Non se la spiega. Senta, la salma di suo figlio arriverà oggi a Roma. Sì, lei prima ci siamo parlati, ha detto non è previsto alcun tipo di cerimoniale. Insomma. Sì. E questa cosa le dà fastidio? No, penso che sia una cosa normale. Vittorio arriva come un bagaglio e ci sarà a riceverlo all'aeroporto la sua compagna Maria Elena Delia e poi da lì verrà portato subito all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, credo. E ci sono alcuni miei assessori, amici che vorrebbero scendere a Roma e so anche che molti amici di Vittorio di Roma vorrebbero dargli un saluto lì, quindi non so cosa riusciranno a fare. Senta, noi ovviamente nel massimo rispetto per il dolore della perdita del suo figlio, però ci sono alcune domande che l'opinione pubblica si è posta. Per esempio, perché lei ha voluto che neanche la salma di suo figlio passasse per Israele, ma invece è passata dal sud della striscia di Gaza in Egitto? Ma guardi, mi ha chiamato anche il corrispondente da Roma del maggior quotidiano israeliano. Sì. Non ricordo il nome perché è un nome in ebraico molto lungo, mi ha fatto la medesima domanda, ma io la risposta che gli ho dato è questa, quello che ha detto suo papà, proprio tranchant, Israele non ha mai voluto Vittorio da vivo e non lo vedrà passare neanche da morto. Questo mi sembra una questione di pura coerenza. Però lei sa che, voglio dire, si sono sentite tante parole da qualcuno addirittura di condanna nei confronti di Israele quando suo figlio poi è stato ucciso da un gruppo certo fondamentalista, ma delle stesse persone che lui voleva aiutare. Se andiamo indietro nella storia, senza permettermi assolutamente di fare i paragoni che sarebbero impropri, andiamo a vedere chi ha ucciso Rabin, che ha ucciso Gandhi, non voglio fare paragoni, molte volte è proprio il popolo a cui ti rivolgi che ti si rivolta contro. Quindi, sì, Rabin ucciso da un fanatico israeliano. E Mahatma Gandhi, però, indiano, insomma, non voglio fare paragoni. No, lei dice, non è un paragone, però dice... succede, no? Suo figlio, le faccio questa domanda brutale, odiava Israele? Un'altra cosa, sì, dica. Quando Vittorio voleva uscire dalla striscia di Gaza gli era impedito e ci fu una voce dall'IDF, quindi dall'esercito israeliano, che disse dal mare venuto, dal mare ritorni, però non poteva percorrere a nuoto il Mediterraneo Vittorio. Suo figlio non era molto amico, diciamo, dello Stato israeliano, no? Delle politiche israeliane. Ci mancherebbe, quando siamo di fronte a un oppresso e a un oppressore, cioè, non c'è neanche da domandarsi verso chi va la propria scelta. Queste sono letture politiche, come sa, molto molto dibattute. Le chiedo, suo figlio odiava lo Stato di Israele? No, No. Cosa non le piaceva, cosa che denunciava anche nei suoi articoli dello Stato di Israele? Ma denunciava dello Stato di Israele l'assedio criminale di Gaza, cioè, ma nemmeno io sapevo che esistesse Gaza, ma ho saputo cosa succedeva lì dalla voce di Vittorio, da quello che scriveva. Quindi non è tanto un odiare uno Stato, è scrivere e dire cosa stava facendo Israele verso la popolazione, quindi Hamas o non Hamas, lì c'è 1,5 milioni di persone tuttora che praticamente vive allo stremo, e non è che lo dicesse solo Vittorio, basta leggere, Vittorio era molto preciso quando scriveva. Però questa signora, lei come sa, insomma, le versioni possono essere viste da due parti, da Israele possono dire che sono partiti per anni missili a colpire la popolazione, cioè la lettura... Quanti morti hanno fatto questi missili? Quanti morti hanno fatto i missili? Beh, ci sono stati molti morti, ci sono stati anche attentati. Ci sono stati... Quanti morti ci sono stati a Gaza? Non ho il computo, ma non credo che sia una questione di numeri, di fare un morto in più da una parte o dall'altra. Ci mancherebbe altro, però qualche termine di paragone si può anche utilizzare. Quindi la deprecazione universale dei morti israeliani, ma ci mancherebbe altro. Io sono stata la prima a scrivere quando venne ucciso anni fa uno studente con un missile, che deprecavo questo. Poi però successe che per un morto israeliano furono uccisi 200 o 300 palestinesi. E allora mi dicevo che anche in via Rasella a Roma successe così, no? Senta, le ultime due domande sono, lei non avrà visto i giornali, soprattutto i giornali come Libero e il Giornale, che sono stati molto duri. Libero titolava "Lasciatelo là". Non lo so, quando questo? 3 giorni fa, in prima pagina. Io Libero non lo leggo. No, vabbè, però non lo leggo mai, quindi non sono andata a comprarlo per quello. Oggi invece sempre questi giornali, il giornale Libero, dicono che tra le motivazioni, tra i moventi dell'omicidio potrebbe essere uno stile di vita non... Perché sorride? Uno stile di vita non accettato dai fondamentalisti islamici. Lo stile di vita di Vittorio. Sì. Tante volte quando mi capitava di vederlo dicevo, povero Vittorio, come sei conciato, sei vestito che sembra un barbone. Cioè lo stile di vita di Vittorio era lui faceva la vita con gli altri, quindi... E quando seppe che fui rieletta nel 2009, non mi dice, vado a festeggiare, con che cosa? Con il pollo, mamma, no? Pollo e riso. No, che stile di vita occidentale, Vittorio, assolutamente. Senta, un'ultima domanda, so che è una domanda che lei non potrà neanche mai più fare a suo figlio, ma davvero non le rimprovera nulla delle scelte di vita che ha fatto negli ultimi 2 anni? A Vittorio? Sì. No. Io e Vittorio eravamo molto uniti, eravamo anche molto affini, quindi quando ci si parlava, certo io lo dicevo sempre... prudenza, anche il papà, tieni il profilo basso Vittorio, tieni il profilo basso, ma lui non ha mai agito così con sventatezza, tutto quello che faceva quando era in pericolo, ma perché condivideva il pericolo degli altri, quindi io di Vittorio quando ho detto che sono orgogliosa non era un modo di dire, e poi vedo cosa sta succedendo intorno a noi, a Bulciago. Mi hanno avvisato ieri che la Farnesina ha comunicato che alla loro ambasciata ad Amman in Giordania stanno arrivando pacchi e pacchi di messaggi, di attestazioni, di affetto, di amore per Vittorio. Vogliamo sapere come fare a farceli arrivare. Da Londra altrettanto, da Parigi. Ieri ho parlato brevemente con una radio parigina. Vittorio è universale, le sue scelte sono state universali, io assolutamente... No, c'è l'orgoglio. Io signora la devo salutare. Un orgoglio non orgoglioso, se riesco a farmi capire, no? Non perché Vittorio è andato a finire sulle pagine dei giornali, ma perché sono veramente contenta, anche il papà e la sorella Alessandra, di quello che ha fatto Vittorio. Io intanto la ringrazio, ovviamente condoglianze a tutta la famiglia. Signore Gidia, grazie per essere stata con noi. Gidia Beretta è la madre di Vittorio Arrigoni. E noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità e il meteo, e poi nel nostro sondaggio parliamo di questa vicenda, di questa storia. Ragazza pakistana, Jamila, è assurda nell'onore della cronaca, è tornata a scuola e non andava a scuola perché è troppo bella, ma ha detto alcune dichiarazioni che ci fanno discutere sui rapporti tra le civiltà, sulle tradizioni, sugli usi e costumi, sul diritto alla libertà, alla dignità della persona. Tra poco nel sondaggio 24 mattino. Nel nostro sondaggio di oggi di cosa parliamo? Parliamo, prendendo spunto da questa vicenda, della ragazza pakistana Jamila, che è tornata a scuola, avete letto sui giornali, ma ha detto alcune cose che ci hanno colpito. Per esempio: voglio vivere in Italia ma da pakistana, non esco mai di casa se non accompagnata, non vado mai alle feste perché è giusto così, sono pakistana, le tradizioni sono queste, voglio vivere così. Siete d'accordo, vi chiediamo? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E ne parliamo con intanto Massimo Fini, scrittore, che ritrovo con il libro che avevamo anticipato qualche mese fa, Il Mullah Omar, scritto, edito da Marsilio. Massimo Fini, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Un libro che sta facendo anche molto discutere, poi ne parleremo. Voglio salutare anche Samira Chabib, che è presidente dell'associazione Donne Marocchine Sadia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, vorrei, Massimo Fini, intanto, colpisce questa Jamila che dice io non vado al lago perché non mi devo mica mostrare mezza nuda, non esco di casa se non accompagnata perché è giusto così, la mia tradizione è questa, che male c'è? La colpisce, fa bene, è d'accordo? Assolutamente sì, nel senso che chiunque viva in Italia, sia straniero o italiano, deve rispettare le leggi italiane, ovviamente, e per il resto è libero di vivere secondo i propri costumi, secondo le proprie tradizioni. Del resto abbiamo esempi, diciamo, nobili, gli ebrei, che hanno un fortissimo senso delle proprie radici, quelli ortodossi soprattutto, vivono secondo le proprie tradizioni, i propri riti. Lo Stato italiano ha anche concesso alcune, diciamo, facilitazioni, per esempio i concorsi pubblici non si fanno di sabato per poter permettere a chi professa questa religione di parteciparvi, perché sennò il sabato ogni attività è proibita. Ma non sono frasi che fanno riflettere anche sul concetto, per esempio, molto opinabile di libertà dell'individuo, su dignità della persona? Sono culture diverse. Noi abbiamo Occidente, diciamo così, una cultura individualista che parte da due secoli e mezzo fa, l'illuminismo, Stuart Mill, Locke, insomma, eccetera. Questi paesi hanno altre culture, cioè dove i legami familiari e di clan sono più importanti dell'individuo. E quindi io non ci trovo assolutamente, ripeto, nella misura in cui non si ledono le leggi italiane, certo, ovviamente, perché se poi succede come quell'altra ragazza che il padre ammazza la figlia per, allora questo va in galera. No, ma questo sì, felato, qui no? Discutiamo di approcci culturali, di modi di vedere la vita culturale. Bisogna capire, cioè è una cosa che l'Occidente non capisce più, io l'ho chiamato il vizio oscuro Occidente, è che noi non è che abbiamo i migliori valori, cioè pensare che i propri valori, perché sono i propri, sono i migliori, oltre che vagamente egocentrico, è anche ingenuo. Vediamo su questo. Samira Chabib, come detto, è presidente dell'associazione Donne Marocchine Sadia. Le chiedo intanto, bisogna credere, non possiamo saperlo, ma bisogna credere alla libertà di espressione di questa ragazza che dice io non esco mai di casa se non accompagnata da qualcuno, non vado alle feste ma è giusto così e va bene così perché questa è la tradizione. Io personalmente qua c'è tanto da dire, perché non potrei accettare e dire una libertà di espressione di una ragazza che è ancora costretta a stare in mezzo a quella famiglia, che è costretta a stare a casa e non andare a scuola. Io dico, a questo punto qua, questa non è una libertà. La libertà sua me lo dici se è lontana da quella famiglia lì, sì, lei si sente per esempio tutelata e poi ne parliamo, ma così assolutamente non è una libertà, perché perché lei è costretta a star meglio a quella famiglia lì, non può andargli contro oggi per dire qualcosa di diverso, anche perché è un suicidio per lei. Quindi dice in realtà non crede molto alle parole, soprattutto se vengono pronunciate, c'era vicino credo il console pakistano a Milano, appunto. È un suicidio proprio questo. Io penso che una persona intelligente non si suicida se non ha un'altra tutela, se non ha un'altra spalla, diciamo, che può coprirla praticamente. Ma voi come associazione, ci sono donne, immagino tante, che si rivolgono a voi, che sono costrette nel vivere così, ma di queste, voglio dire, sono sicuro che io e anche Massimo Fini dirà, beh, in questo caso sono costrizioni, ma che invece scelgano liberamente, rispettando la propria cultura, rispettando i propri stili di vita, di vivere in questo modo. E per questo noi magari ci arroghiamo a volte il diritto di dire così non va bene, così è peggio. Guardi, almeno per la mia esperienza personale con la nostra associazione, noi abbiamo ricevuto, continuiamo a ricevere tante di quelle richieste delle ragazze giovani che praticamente arrivano a scappare, arrivano proprio a andare fuori di casa propria, lontano dai genitori, proprio per poter dirla loro. Io dico, e per quello che io continuo a ribadire, che questa ragazza qua non ha la libertà in questo momento qua di esprimere veramente come lei lo pensa, non può farlo, perché è costretta a dire quello che giustamente va bene per le altre. Certo. Invece noi abbiamo avuto dei casi delle ragazze che quando sono lontani hanno rifiutato vedere i genitori per quello che hanno subito da loro, anche per non essere influenzati ancora da loro. Allora non possiamo dire che quello che sta succedendo a Jamila va bene. Noi siamo veramente delusi, perché qua forse un caso di una ragazza italiana, penso che il tribunale avrebbe reagito in maniera differente. Questa ragazza qua viene allontanata dai genitori, subito dai familiari, dei fratelli, perché prima di tutto dobbiamo assicurare la tutela a lei. Poi parliamo di altre cose, parliamo di culture. Così si deve parlare di culture che si vanno bene per loro, che sono le loro culture, dobbiamo rispettare. Assolutamente no. Oh, questo è un approccio, è un approccio molto interessante, sul quale, Massimo Fini, vorrei una sua riflessione. Poi dopo le informazioni sul traffico parliamo appunto anche del libro, il Mullah Omar. Perché insomma Samira Shabib dice, ma non possiamo pensare che questa persona sia libera nel momento in cui parla. Lo pensa lei, la pensa la signora Santanchè, ma se questa ragazza fosse costretta, potrebbe andare dalla polizia e dire: guardate che io sono in questa situazione. Non è così. Noi sappiamo che la cultura pakistana ha questo tipo di formazione, che è una formazione, ripeto, dove la famiglia conta, dove per prendere le decisioni ci si riunisce. Cioè, a noi stupisce che una ragazza non voglia andare al mare e vada al lago, ma queste sono ragazze italiane, o questa è una ragazza pakistana, è diversa, ripeto. Allora, perché dovremmo accettare il fatto che gli ebrei si circoncidano? Ma chi ha detto che si circoncidano? Li circoncidano che hanno 2 anni o meno, un mese, non lo so. E chi ha detto che questo è fatto con la loro volontà? Voglio dire, non capisco questa storia. È una forma, ripeto, di totalitarismo occidentale, introiettato evidentemente ormai da molte culture, per cui i valori nostri devono essere applicati assolutamente a tutti. Non è affatto vero che se una ragazza italiana fosse nelle stesse condizioni sarebbe successo qualcosa di diverso. Ripeto, deve decidere lei, la sua famiglia, non certamente la signora Santanchè o quell'altra o chi per loro. Vabbè, anche questo intervento dello Stato, che richiama la signora che è al telefono con noi, è assolutamente inquietante, perché allora è lo Stato che si arroga il diritto di decidere quale deve essere. No, capisco che il crinale è sottile, cioè perché decide di arrogarsi il diritto di dire laddove c'è una situazione di libertà o di lesa dignità oppure no, è sempre un intervento delicato. Però è anche vero che ci sono stati casi, purtroppo in passato, dove poi magari un intervento sarebbe stato meglio farlo un giorno prima rispetto che un giorno dopo, quando ci sono consumati anche dei drammi. Però da qui voglio ripartire. Dopo le informazioni sul traffico voglio anche appunto entrare a parlare parlare un attimo di questo libro che sta facendo molto discutere, Il Mullah Omar, scritto da Massimo Fini, che parla sempre di approcci culturali diversi, il tema di cui discutiamo oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Tra l'altro vorrei dire che il 58% dei nostri ascoltatori, alla domanda che poniamo, voglio vivere in Italia ma da pakistana, cioè uscire di che non esco di casa se non accompagnata, e giusto così, dicono no, è un approccio che non ci piace. Però Fini, allora, il Mullah Omar, questo libro che lei ha scritto, io l'ho divorato, perché il Mullah Omar è una figura che ha sempre affascinato anche a me, devo dire, però insomma ci sono state molte polemiche, so che l'hanno anche denunciata per questo libro, perché ne viene fuori una visione quasi romantica, molto interessante, di quest'uomo singolare, timido, umile, che ha portato coi talebani l'ordine, il rigore, la disciplina in un paese dove, che era devastato dalle guerre. Insomma, quasi una, qualcuno dice, una agiografia di un leader che invece il mondo conosce per essere il capo dei talebani, quindi quelli degli oppressori dei diritti delle donne del burka. A parte il fatto che il burka è una tradizione antichissima. Non afghana, certo. Non ce l'hanno portato i talebani. Ma innanzitutto bisogna capire perché nasce il movimento talebano. Dopo l'uscita di scena dell'Unione Sovietica, i grandi comandanti che avevano sconfitto il colosso sovietico, i signori della guerra, cioè Massoud, Hekmatyar, Dostum, Ismail Khan, sono in lotta, feroce lotta civile, guerra civile per impadronirsi del potere, agiscono nel pieno arbitrio taglieggiando, borseggiando, sì, assassinando, stuprando, vessando in ogni modo la popolazione, le sbattono fuori la gente che vi abita per mettere i loro seguaci, eccetera, eccetera. E in questo i talebani effettivamente ripristinano un ordine. Che sono poi l'inizio, è fatto da quattro ragazzi, sì, insomma, sì, che si chiamano Marga, Aus, Hassan e i talebani sono la reazione a questa situazione, e vinceranno i signori della guerra, che sono molto più organizzati, potenti, perché questi sono in realtà, quando iniziano, sono dei ragazzi semplicemente che hanno fatto la guerra contro, tra l'altro tutti hanno fatto, giovanissimi, la guerra contro i sovietici, ma poi sono tornati nelle loro case, e batteranno i signori della guerra, perché hanno l'appoggio della popolazione che non ne può più di questi abusi. Lo so, però questa visione appunto di questo non libro è una che invita lei, fatto questo. No, ma quella il ritratto che ne esce nel libro, il libro che comunque invito a leggere, molto interessante, è quello di un Mullah Omar, cioè quasi senza pecche, se non pecche minori rispetto a quelle che noi conosciamo. Senti una cosa. Un uomo che combatte per 10 anni contro gli invasori sovietici, perde un occhio in questa cosa, ha una serie di ferite, se lo strappa e si benda. Poi combatte i signori della guerra e, come dirà all'inizio della sua avventura, il giovane Omar dice: come potevamo tollerare una situazione con questi crimini contro le donne e contro la propria gente? E che poi combatte da 10 anni altri invasori arroganti, più dei primi, gli americani, sì, gli americani e noi, perché siamo noi tutti, che pretendono di portare i loro valori, le loro istituzioni, le cose, un paese che ha tradizioni, storie completamente diverse. Io posso non essere d'accordo naturalmente sull'ideologia del Mullah Omar, ma lo rispetto profondamente, e qui sarebbe un eroe uno che ha fatto una cosa del genere. Noi lo prendiamo per un terrorista, cosa che non è mai stata. No, Samira Shabib, non so, non è tanto sulla questione del libro, ma poi il libro riflette quelle sempre il punto d'approccio iniziale. Sappiamo quello che sta succedendo, è per questo che io dico assolutamente no. Noi, guarda, mi dispiace, io non conosco personalmente il signor Massimo Fini, però non sono d'accordo con lui su niente, perché quello che sta dicendo lui è quello che noi donne musulmane stiamo lottando oggi in Italia per dire, per questa libertà qua, per queste donne qua. Non possiamo oggi tornare nei passi indietro, non le permettiamo a nessuno, neanche al signor Massimo Fini, perché con questo metodo qua, con questo libro, con questo suo ragionamento ci sta portando indietro. ma noi non accettiamo. Se lui è affascinato da questa popolazione, da questo mullah umar, che va a vivere con loro? Ma noi qua in Italia tuteliamo, vogliamo la tutela delle donne, la libertà delle donne. Niente burka. Niente burka. Che sia chiaro. No, no, ma è chiaro. E non scusi, io non sostengo affatto che noi dobbiamo cuccarci qui il mullah umar. Sostengo innanzitutto il diritto di un popolo, nella parte di esso, a resistere all'occupazione dello straniero comunque motivata. Non so se lei conosce la storia italiana, ma se no dobbiamo prendere tutta la nostra resistenza e buttarla nel cesso. Questa invasione e occupazione ha causato la morte di 60.000 civili, c'è un rapporto NATO la cui maggioranza è causata dai bombardamenti della NATO. Le donne afghane oggi, secondo un recentissimo reportage di un giornalista inglese del Guardian, quindi un liberale, sì, Jonathan Steele, tutti gli afghani, comprese le donne, comprese le professioniste, cioè quelle che sono state più mortificate dall'interpretazione rigida della Sharia da parte dei talebani, vogliono una sola cosa: che gli stranieri se ne vadano. Dopodiché decideranno loro qual è il loro destino. Cioè, mi sembra di capire, Samir Shabib, quello che vuole sottolineare Massimo Fini è il diritto di autodeterminazione dei popoli, opinabile oppure no nei loro costumi, nelle loro tradizioni, nelle loro leggi, che però non debbono essere imposte da una presunta cultura superiore occidentale. Questo approccio, signora Shabib, le può... Guardi, io sono per la libertà prima di tutto, però io che vivo in Italia da tantissimi anni, le dico solo una cosa: non possiamo permettere qui in Italia accettare tutte le culture, accettare tutti quelli che ci portano, i popoli che vivono qui in Italia, che dico solo a livello Verona abbiamo più di 140 etnie. Non possiamo permettere questo, se no questa Italia qua non è più l'Italia. Allora io dico, se vengo qua perché voglio cambiare paese, perché mi piace l'Italia, devo accettarla con sue leggi, con e questo, su questo non c'è dubbio, questa era la premessa anche di Massimo Fini, cioè chi vive in Italia deve accettare allora, le leggi italiane. C'è un paradosso in quello che dici lui: facciamo questo, però quelle sono le loro culture, le rispettiamo. Allora rispettiamo anche quando sono state uccise le ragazze, rispettiamo anche quando i genitori massacrano le figlie per non mandarle a scuola, per non mandarle fuori. Le rispettiamo perché li fanno sposare a 12 anni, magari anche qua in Italia. Rispettiamo la poligamia. Insomma, qua c'è un mare di cose che dobbiamo dire no a questa roba qua. Noi dobbiamo rispettare le leggi, non alle culture che ci portano indietro. Questo, allora, visto che non possiamo sapere veramente quali sono le culture, mi sembra che Italia a questo punto qua, a questo problema qua, non riesce più a individuare. Allora io dico no alle culture che ci portano indietro. Questa idea del dire no, Massimo Fini, ci dobbiamo lasciare su questo. Questa idea del dire no, Samira Shabib la rivendica, no? Rispettino le leggi tutti, a cominciare dal Presidente del Consiglio, perché il resto ognuno è libero di fare quello che vuole. Questa è la vera libertà, non il totalitarismo che esprime la signora... Samira, intanto io vi ringrazio, Samira Shabib, presidente dell'Associazione Donne Marocchine Saadia, e Massimo Fini, del cui libro vi invito alla lettura, perché è stato addirittura appunto denunciato da alcune persone dicendo istiga all'odio, istiga al terrore, eccetera. No, intanto i libri vanno letti, insomma, e poi discussi. Massimo Fini, il Mullah Omar, edito da Marsilio. Lo trovate ovviamente in libreria. Io vi ringrazio con Elisabetta Fuscone, Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia. Che dire, do la linea come di consueto a Oscar Giannino. Noi ci troviamo anche su Facebook, mi raccomando, andate sulla nostra pagina 24 Mattino, ci trovate lì, scriveteci anche 24 Mattino e radio24.it, e ci ritroviamo domani alle 7:20.